Radio 24. Libera la voglia di fare. Higuain è un ragazzo che a me ha fatto del bene, cioè nel senso ha fatto benissimo, è stato disponibile. E lo saluto come si saluta un figlio e ti ha fatto incazzare, dai. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Allora, siamo alla vigilia di Juventus-Napoli, si discute decisiva, non decisiva, ditemi voi anche come la pensate, 348-239-6666, per i messaggi WhatsApp 800240024, soprattutto per sentire la vostra voce ed è quello che più interessa a me e al mio amico Pardo. Ciao Pier. Ciao, come va? Molto bene. Decisiva, non decisiva? Io ti dico la mia: non decisiva, perché il Napoli non, e neanche la Roma possono arrivare a quota Juventus, però questo è il mio pensiero, ce l'ho, me lo tengo, ognuno è libero di pensarla come vuole. Anche non se decisiva vuoi... perché è tutto già deciso. Esatto, io dico decisiva perché è tutto grosso modo già deciso, cioè non riesco a vedere una rivoluzione sinceramente in questo campionato. Ci auguriamo di illuderci, lasciami usare questa parola, fino alla fine. Ti faccio sentire cosa ha detto oggi Allegri? Gli scontri diretti di girone andata non sono mai decisivi, quelli di ritorno sono decisivi. Addirittura, se non erro, mi sembra che l'anno scorso, un anno ad oggi, il 28 ottobre dell'anno scorso, perdevamo in quel di Sassuolo, tra qualche ora prendevamo gol a Sassuolo e eravamo dodicesimi in classifica. Sì, eravamo dodicesimi in classifica, poi sappiamo com'è finita anche questa storia, ed è questa una ragione in più per farmi credere che, per farmi pensare che non sarà decisiva né all'andata né al ritorno per i motivi che ti ho detto. Tu come la pensi? No, io penso che sicuramente, insomma, la Juve sia strafavorita e il tuo ragionamento quadra, fila pienamente. Detto questo, poi le rivoluzioni cominciano anche piano piano, senza accorgersene, per cui insomma io ancora un po' di campionato vorrei vederlo prima di alzare bandiera bianca dal punto di vista delle seguitrici e il tricolore dal punto di vista della Juve per il sesto anno di fila. Le rivoluzioni, come sai cosa mi è venuto in mente? Le rivoluzioni cominciano anche con la rissa sul campo tra Stella Rossa Belgrado e Partizan, Belgrado, vero, con vero, il famoso vero calcio di Boban al poliziotto. Boban. Poi sì, no, le rivoluzioni, quella fu una, ovviamente un'altra storia. Un'altra storia, no. Di una... Io parlo di rivoluzioni calcistiche. Ma sì, ma anch'io sto parlando di rivoluzioni. Io adesso ho fatto questo esempio molto forzato, però come tu dici, le rivoluzioni possono cominciare da una scintilla. Non so se questa scintilla può arrivare più dal Napoli o più dalla Roma, questo non ho ancora capito. No, sicuramente, sono d'accordo con Allegri, sicuramente gli scontri diretti non sono decisivi. Aggiungo al ragionamento che ha fatto Allegri il fatto che la Juve lo scorso anno nel girone d'andata ha perso lo scontro diretto sia con la Roma che col Napoli, quindi a maggior ragione il suo ragionamento vale. È chiaro che se il Napoli perdesse domani sera, come è anche possibile, come è forse probabile, insomma andrebbe a meno 7 e 7 punti. Se ce l'ha di ritardo la squadra che ha dominato gli ultimi campionati, magari può avere l'abitudine, no, a reagire. Se ce l'ha una squadra che sta facendo cose molto importanti, perché il Napoli sta facendo cose importantissime in questi anni, ma ovviamente come la Roma non vince il campionato, sono un po' diverse. Quindi più 7, 20 punti di vantaggio di Hamilton su Rosberg sono diversi da 20 punti di vantaggio di Rosberg su Hamilton, sì, per fare l'esempio. Lo stesso discorso riguarda ovviamente secondo me la Juve, quindi io penso che non sia decisiva, però insomma è un bel test, anche perché poi c'è anche la Roma in mezzo che magari spera in un pareggio, spera che la Juve non vinca, insomma, chiaro. Domani è anche il giorno in cui il figlio che mi ha fatto incazzare, come dice Sarri, cioè Gonzalo Higuain, affronta per la sua prima volta il Napoli. Si gioca a Torino, quindi non vedremo le contestazioni, che invece vedremo al ritorno. Sono curioso di vedere, spero sia tutto in estrema civiltà, però così Allegri su Higuain. Per quanto riguarda Higuain, è una scelta, e siamo tutti professionisti. Le cose, in tutte le cose della vita, iniziano e finiscono. Higuain, i tifosi napoletani devono essere riconoscenti a Higuain per quello che ha fatto, per quello che ha dimostrato. Higuain deve essere riconoscente ai tifosi napoletani per l'affetto che gli hanno dato. Ma io credo che il ragazzo, ogni tanto ci parlo, questi oggi no, ma i giorni di adesso ci ha parlato, lui è sereno, è molto legato alla città di Napoli, questo sicuramente. Senti, a stretto giro di poste prima di fermarci per il traffico, poi cominciamo a parlare con altri due ospiti che stiamo aspettando. Uno che sta da una parte, uno che sta dall'altra. De Laurentiis e poi traffico. Segno una doppietta al Napoli, speriamo. L'ha appena detto, dice, mezz'ora fa Higuain, quindi io la risposta da lei la devo pretendere come minimo, se no mi cacciano da questo luogo. Non posso risponderle, lì non c'è invidia, lì c'è giusta così considerazione anche per una squadra che evidentemente viene reputata pericolosa. Tutti convocati. Qui altro che ciupiti di Bobo Viel. Tutti convocati. Cerca Higuain in acrobazia. Higuain! Non è vero! Goal! Non è vero! Non è vero! Goal! Non è vero, Mauri! 36! Nessuno come lui! Ma non è mica vero! Ma è impossibile così! Il 36esimo così! La tripletta con questa giocata! Ma questo è un film! Non è stato facile per niente. Sì che mi ha spinto lo che ho detto, eh? Che è una società con la mentalità convinta di vincere, e questa è una delle cose più importanti per un giocatore. Tu non ci piensas tu, l'onore mio. Tu. Palla dentro, splendida, che tira! Deviazione, Gonzalo! Sì, Giorgio De Luca, nostro autore, questa canzone mi ha fatto un po' ammosciare. Poi è chiaro che è il figlio, non t'offendere Giorgio, è il figlio che torna contro chi? Contro il suo vecchio allenatore che l'ha fatto incazzare. Pardo, abbiamo due grandi ospiti, uno penso tu lo conosca di vista. Tutti e due li conosco molto bene, credo. Credo tu li conosca di vista, Giampiero Mughini e Maurizio De Giovanni. Un abbraccio a tutti. Viva il bel calcio, viva Napoli, viva l'Italia. Vabbè, ma sei buono. Dai, Giampiero. Mughini democristiano, cos'è? Ma io sono democristianissimo, sono il più democristiano di tutti, non avendo mai votato per la Democrazia Cristiana. Tra l'altro ricordo una scena, credo di Ecce Bombo, con un Giampiero Mughini, forse trentenne, voglio sapere, 35enne. Ma che te ne frega? Fa questo cameo e dice: le elezioni, vince la Democrazia Cristiana, vince il Partito Comunista, che previsioni atroci, una roba del genere, giusto? Ma sì, naturale, erano i due grandi partiti, ovviamente cosa volevi che facessero se non che vincessero? Sì, io non ho mai votato per la Democrazia Cristiana, ma lo ritengo il più grande partito italiano del secondo dopoguerra. Sentite, no, è che era Nanni Moretti che ha fatto il film, quindi in caso no, lui Nanni Moretti aveva fatto il film, ma le mie parole, le mie scene me le sono scritte da me. Questo per tua educazione, Pardo. Hai per capito? Per tua educazione, no, io posso condividere con Giampiero Mughini e Maurizio De Giovanni il mio pensiero. Si parla di confronto diretto, Allegri dice ma no, all'andata non è decisivo, lo sarà al ritorno. Io contro i miei interessi perché l'interesse di chi fa questo mestiere è dire: mamma che partita, confronto diretto, sfida scudetto, andremo all'ultimo respiro. Secondo me sfida scudetto né all'andata né al ritorno, perché anche questo scudetto, d'altra parte Agnelli è stato molto franco l'altro giorno nell'assemblea dei soci: ragazzi, noi siamo 5-6 anni avanti agli altri, e quindi non è partita scudetto, lo scudetto andrà in una direzione che è la solita degli ultimi 5 anni. Non so, Maurizio De Giovanni e poi sentiamo Gian Piero Mughini. Io ascolto con grande interesse, innanzitutto abbraccio il maestro Mughini, che risento sempre con grande gioia. E niente, io sono convinto, l'ho scritto più volte anch'io, fatti salvi naturalmente gli scongiuri degli amici juventini, che la Juventus si è attrezzata per ben altre competizioni che non il campionato italiano. Cioè, sì. Si è messa in maniera tale da poter giustamente a questo punto competere con Barcellona, Bayern e Real Madrid per mettere la bandierina sulla vetta più alta del massiccio europeo. Immagino detto cosa questo, stia facendo Gian Piero Mughini, sì, solo immagino, solo immagino. Ho sentito un evidente cambio di mano del microfono. Però ciò detto, ed è giusto ed è opportuno che sia così, il campionato italiano va giocato comunque, e siccome va giocato e va giocato di partita in partita, si guarderà di partita in partita. Io francamente l'ho scritto anche per Corriere Romano, sono del parere che il Napoli sia convalescente, cioè sia in una condizione di miglioramento a proposito di una malattia sostanzialmente causata dall'infortunio di Milik e dal folle gesto di Gabbiadini contro il Crotone. Quindi sì, deve rimodulare il proprio gioco, andrà a Torino con la serenità e con l'allegria, e mi auguro la leggerezza, di non essere, di non avere la croce di dover essere l'alternativa alla Juventus. Cioè il Napoli in questo momento, perché non l'alternativa alla Juventus non esiste. Gian Piero Mughini, voglio sentirti fare lo scaramantico, se ci riesco. Ma naturalmente, a parte l'abbraccio a Maurizio, ed è impari il mio confronto con Maurizio, perché Maurizio è una centrale elettrica del napoletanesimo, nel senso che lui creativamente sta a Napoli. Non credo che le sue storie, di cui ovviamente io e la mia compagna siamo lettori, le potrebbe ambientare a Zurigo. Io invece sono un apolide, vivo a Roma, sono nato in Sicilia, tifo per una squadra di Torino, e la gran parte del mio reddito viene da aziende editoriali milanesi. Io non è che sono scaramantico di più, le partite sono tutte 38 decisive, perché tutte 38 mettono a disposizione tre punti. Sì, i tre dai. Punti è meglio averli che non averli. Guarda, ha quasi che ragione. Poi siano questi tre punti più decisivi di tutto il campionato, questo non lo possiamo sapere. Comunque questa è una partita che comincia da 0-0 ed è apertissima. Non so se il Napoli, non sono in grado di dirlo perché non lo conosco tecnicamente, sia il miglior Napoli di questi ultimi anni. Può darsi di no, però in questo momento forse neppure la Juve è la miglior Juve di questi ultimi, anche se l'ultima partita l'ha pareggiata a Milano, quindi non è andata mica male, 1-1 è un buon risultato. Sì, pareggiata a Milano 1-1 non è un cattivo risultato. Assolutamente nulla, salvo il fatto che è stato ingiustamente annullato. 1-1 vuol dire che non c'è più religione del calcio. No, esiste religione del calcio, esistono anche i fischietti. Quel gol è stato annullato. Che poi fosse buono, io do sempre la mia stima e la mia. Certo, ma i fischietti sono un particolare secondario del calcio, sì, del tutto sì, secondario. Sì, sì, Pardo, hai sentito Mughini? Mi sa che hai ragione. Tra l'altro sono in Mughini's Land, sono sopra Catania, il mare era calmo, appena Mughini ha detto questa cosa il mare si è incazzato improvvisamente, come a seguire insomma la vis polemica del nostro uomo. No, ma io penso che sia veramente una partita che non possiamo definire decisiva sicuramente, perché c'è ancora tantissima strada avanti, ma il destino è sempre comunque nei piedi della Juve, nel senso, se la Juve avrà il ritmo, indipendentemente da questo Juve-Napoli, se nei prossimi 5-6 mesi la Juve avrà il ritmo che ha avuto nella seconda parte della passata stagione, allora possiamo andare tutti a casa, perché non c'è partita. Se questo non accadrà, perché poi appunto nella storia le cose cambiano, magari piano piano, ma cambiano, allora questo è un passaggio importante. Sicuramente il Napoli ha meno pressione rispetto allo Juve-Napoli dell'anno scorso, del girone di ritorno, perché ha meno da perdere, perché tra virgolette si è già in qualche modo rassegnata l'idea di poter perdere questo campionato, di non doverlo vincere, mentre lo scorso anno realmente c'era un livello di adrenalina e di tensione enorme e di ansia da prestazione enorme. Però non so se questo basterà poi per far fare al Napoli una partita straordinaria. Poi il vero tema è questo: il Napoli ha dei colpi sicuramente molto importanti per colpire la Juve. La Juve credo che complessivamente abbia più qualità, sia più squadra e gioca in casa. Sì. Per chiudere con Maurizio Giovanni e Giampiero Mugheni, una domanda a testa. Maurizio, il tuo obiettivo stagionale qual è? Realisticamente. Il mio obiettivo stagionale è realizzare lo stesso risultato dell'anno scorso, cioè il secondo posto. Accedere alla Champions diretta, che è l'ultimo, forse, se passasse questa riforma delle quattro squadre, è l'ultimo anno in cui è necessario arrivare secondi per accedere alla Champions diretta. Sappiamo quanto economicamente sia fondamentale. Il Napoli è la società regina del gruppo a cui appartiene, in quanto ha questa orribile parola fatturato che si usa qui a Barbera, lo so. Basta, però è anche, basta, è anche basta, la, no, diciamo che allora diciamo così: il Napoli si autofinanzia, quindi è necessario per il Napoli sì, avere i soldi per autofinanziare. Però l'estratto Conto questo non va in campo e non gioca pallone, dai. Sì, ma poi sono d'accordo, è tutto vero. Chiedo, è tutto... Non ho non c'è nulla da chiedere. Scusa, altri, non l'ho usata in quel termine, non ho detto meno fatturato, più fatturato. Io ho detto il Napoli si autofinanzia, di conseguenza ha bisogno di soldi per poter giocare a questi livelli, autofinanziandosi, e l'autofinanziamento passa necessariamente per la Juve. Questo non fa una piega. Questo non è fa questo, una piega. E questo, diciamo, quindi il mio obiettivo personale è il secondo, è il secondo è posto. È quello di realizzare questo tentativo. Se tu mi dicessi vinci sicuramente i preliminari, va bene anche il testo. Va bene, va bene. Io ringrazio Maurizio, e invece a Giampiero chiedo, Giampiero Mugheni, tu credi che la Juventus sia ora, come dice De Giovanni, da Champions, quindi l'obiettivo, a parte che è talmente aleatorio che è quasi inutile discuterne, come sai benissimo. Io inorridirei se... di una società che avesse come suo obiettivo la Champions e non soprattutto lo scudetto. E io, se vuoi fondare un partito su questo, mi candido come tuo vice. Perché le 38 partite del sono una maratona, perdonatemi, valgono forse un po' più di quella volta, forse un po' più di quella volta, di quella Champions, in cui una squadra chiamata Milan, che in campionato era 10 o 15 punti, certamente sopra i 10, vinse la semifinale di Champions con l'Inter 0-0 e 1-1 e passò per il fatto della differenza reti in trasferta a San Siro, e poi vinse contro la Juve ai rigori, e probabilmente se altre 50 volte giocavamo quella partita non andava così. Detto questo, negli almanacchi figurati ci ha messo Champions, e la vuoi paragonare con le 38 partite? No, è una, con l'Empoli, è un altro con Crotone, film, con la Sampdoria, con l'Atalanta, un forse solo, ma vuoi paragonarla? Assolutamente no, voglio solo chiederti se tu ritieni che questa squadra sia nel ristorante da 100 euro insieme, famoso quello di Conte, insieme al Bayern Monaco, al Chelsea, no, al Chelsea, ma sai, Chelsea non c'è, il campo, il, al Barcellona, al Real Madrid. Non lo posso dire io adesso in un giorno di ottobre del 2016, e lo dirà il campo. Con il Bayern non è che fai degli algoritmi prima, il Bayern poi gli devi andare contro. Noi siamo andati contro il Lione, che non è il Bayern, e no, se non era per il più grande e importante santo italiano, che non è San Francesco d'Assisi ma San Gigi Buffone, le beccavamo, o no? Oh sì, grazie Giampiero. Buon lavoro carissimi, ciao. Grazie, Pierluigi. Ciao. Lascio la chiosa, lascio tirare le fila a Pardo, poi voglio parlare un po' di romane che stanno andando. No, la chiosa è che è sempre bellissimo sentire due grandi intellettuali, due personaggi di grande fantasia, di grande intelligenza, che parlano di calcio. Credo che questa sia una conquista europea negli ultimi 20 anni, da Nick Corby in poi. Scusa se magari questa è un po' un fuori tema rispetto a Callejon a Higuain, però credo che sia veramente bello, ed è una realtà, e dimostra che insomma tutti, financo Papa Francesco, hanno una passione e non c'è niente di disonorevole nel parlare di calcio, anche se sei un grande intellettuale, e insomma il caso di Giovanni e di Pochini è assolutamente questo. Allora, adesso andiamo con la borsa 800240024 per rispondere alla convocazione e far sentire la vostra voce. Tutti convocati. Tra poco, nuove notizie. Pigia il coso rosso, grazie. Radio 24. Libera la voglia di fare. Da oggi tutta la radio che vuoi è sempre con te. Dove vuoi, quando vuoi, nella nuova app di Radio 24. Scarica subito l'applicazione gratuita per smartphone e tablet. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Tutti convocati. Allora, questo messaggio via WhatsApp lo giro a Oscar Giannino, che vedo più tardi. Vai a scopare il mare con la forchetta. La ragione non la conosco, ma l'immagine mi piace assai. Pardo, parliamo con i convocati? Sì, assolutamente. Angelo, buongiorno. Dal Livorno, Angelo. Oh, Angelo. Vabbè, Angelo da Livorno sarà alle prese col cacciucco. Mario da Messina, invece. Salve, buongiorno. Buongiorno. Sono Mario da Messina. Senta, io oggi ho scoperto che i miracoli esistono. Ah. E mi riferisco alla CDA dell'Inter che ha dato il rendiconto finanziario, e ho visto che una società che era praticamente l'anno scorso praticamente fallita è riuscita a fare un miracolo di contabilità. Sì, poi parliamo anche di questo, perché c'era Giovanni Capuano per l'appunto in loco e quindi ci racconta tutto. No, volevo sapere, dico, sarebbero da proporre per il Nobel della finanza questi dirigenti dell'Inter che sono riusciti a invertire una i conti in pochissimi mesi, a riportarli da uno stato prefallimentare a uno stato praticamente di pareggio di bilancio. Dico, io so che non è la prima volta che a Milano fanno delle una contabilità creativa. Sì. Dico, per cui dico, volevo un vostro parere sulla credibilità all'ironia. Insomma, siamo all'ironia, no? È chiaro che siamo all'ironia. Passando invece alla cronaca e ai fatti, le ripeto, poi Giovanni Capuano ci racconta tutto con dovizia di dettagli, visto che era lì e che potrà risponderci con maggiore cognizione di causa. È chiaro che, Pier, come sappiamo, l'Inter ci impiegherà qualche stagione per far quadrare i conti. Non basta l'arrivo degli orientali per trovare la miniera d'oro da cui cominciare a scavare. Sì, però io, tutta, diciamo, la ricchezza urge Beninazzo, nel senso che io sull'Inter francamente qualche dubbio ce l'ho, nel senso, al di là dell'ironia dell'ascoltatore, qualche dubbio ce l'ho, perché mi sembra che sinceramente l'Inter non è che abbia fatto poi una manovra lacrime e sangue, come si dice in gergo. No, tutt'altro. Di politica. Tutt'altro. Cioè, comunque i giocatori li ha comprati e quindi da questo punto di vista sicuramente sono entrati nuovi capitali, e questo è importante, ma insomma credo che sia utile un ripassino da parte di Beninazzo per spiegare bene che cosa è avvenuto realmente. Intanto poi ce lo facciamo spiegare da Capuano che era lì. Intanto non so se Angelo da Livorno ha finito il cacciucco. Pronto? Oh, sì, Angelo. Sì, che la ho finito il cacciucco. Ho finito. Bravo. Sento un'informazione, una domanda. L'acquisto a Padula, per quanto riguarda il Milan, a suo tempo era stato fatto a un costo di 10 milioni di euro. Non servono niente se sei Juve o se sei Napoli in questo momento. Ma a noi c'era ancora il progetto cinese che ancora non era ben definito. Certo. Ma, che fine ha fatto? Nel senso, l'ha acquistato la società, perché mi sembra Montella non lo guardi. Beh, insomma, la Padula, correggimi se sbaglio, Pardo è una prima punta. La prima punta titolare, teoricamente, è Bacca, ha avuto problemi di infortunio, quindi un po' arriva dalla Serie B, un po' di tempo aspetterebbe. È il giocatore perfetto per il Pescara per salvarci. Bravo, Per. Bravo, sono d'accordo con te. E converrebbe anche a lui andare la lì. La Padula è arrivata al Milan e io capisco perfettamente che lui abbia accettato, ci mancherebbe altro. Però credo che onestamente a gennaio un ragionamento un ragazzo debba farlo. Poi può essere per scaro, può essere qualcosa trasmesso per scaro, che io abbia bisogno di un giocatore con quelle caratteristiche. Ma adesso il discorso è più generale. Al Milan sta trovando poco spazio. È un ragazzo che ha sbocciato tardi perché ha sbocciato bene. Questo può ancora essere un anno molto importante per lui, quindi forse io fossi lui mi guarderei attorno. Pier, comincio a sentirti un po' così. Ti saluto perché so che... Ti sento male, che te devo dire? Meglio adesso? Sono le prove. Adesso ti sento meglio, ma tanto ti devo salutare perché ha impegni e quindi lo faccio. Va bene, con grandissimo affetto, fratello. Ciao Pierluigi Pardo, ciao. Comincio a introdurre invece Massimo Caputi, che è responsabile delle pagine sportive del Messaggero, per parlare un attimo di Romane. Ciao Massimo. Ciao, buon pomeriggio. Ciao. Mi sembra che il sole splenda su Roma da una parte e dall'altra del Tevere, nonostante insomma i soliti problemi di malumori, tifoseria, pochi abbonati, di tutto quanto, soprattutto la Lazio, che la Roma potesse fare un buon inizio di campionato dopo la trambata presa nel turno preliminare di Europa League, ce lo si poteva aspettare. Che la Lazio marciasse con questa regolarità, dopo i casini, Bielsa, il richiamo di Inzaghi, eccetera, magari anche un po' meno, anche se io come organico l'ho sempre considerata una squadra da quel livello, da livello di Europa League. Ma guarda, innanzitutto qua il sole c'è in tutti i sensi, perché è anche una splendida giornata a Roma, quindi diciamo che non ci facciamo mancare nulla. Ma anche a Milano, per risponderti a tono, perché se pioveva mi deprimeva ancora di più. Hai fatto bene. No, voglio dire, è chiaro che tra la Roma e la Lazio ci si aspettava alla vigilia un campionato di vertice da parte della Roma e un po' meno da parte della Lazio, però come dicevi tu, guardando bene la formazione e con l'acquisto di Immobile, questa era una squadra che aveva nelle sue corde comunque un campionato di buon livello. L'equilibrio che c'è in questo campionato e le difficoltà che alcune squadre stanno incontrando proprio in virtù di un cammino regolare, comunque positivo, sia in trasferta che in alcuni casi è anche in casa, ecco che la pone nelle prime posizioni. A questo punto direi con merito e anche con la possibilità di recitarlo questo ruolo, perché no, fino alla fine, perché il campionato questo ci sta dicendo. Cioè, stiamo parlando adesso al traffico e approfondiamo dopo il discorso, però stiamo parlando del campionato parallelo dietro alla Juventus, no? Esatto, direi di sì, anche se io lo sostengo dall'inizio della stagione, la Juventus è la più forte di tutte, però si vince sul campo. Questo è chiaro, ma infatti l'anno scorso l'ha vinto sul campo, non con le figurine e partendo addirittura senza l'album, perché Allegri ha ricordato prima che un anno fa ci fu la svolta di Sassuolo quando la Juventus aveva meno punti dell'Inter, non ricordo quanti, ma meno punti dell'Inter in questa stagione. Ci fermiamo per il traffico, torniamo subito. Tutti convocati. I love this game. Tutti convocati. Mi ha raggiunto intanto Giovanni Capuano. Eccomi. Che è reduce dall'assemblea dei soci dell'Inter. C'è già un ascoltatore che ha fatto dell'ironia parlando di finanza creativa. Tra poco Tra l'altro ci siamo anche chiariti le idee su De Boer. In che senso? Nel senso che sentendo parlare gli uomini di fiducia di Suning, sentendo parlare in maniera distesa e lunga Ausilio, Bolingbrock, eccetera, mi sono fatto l'idea che De Boer sia un po' più saldo di quanto lo disegniamo e lo abbiamo disegnato in questi giorni. Questo lo scopriremo vivendo. Ognuno fa le sue valutazioni, ma insomma l'idea. Secondo me l'idea manca sempre il classico chairman, come dicono in America. Sì, manca il chairman, però le parole che sono state spese oggi, che probabilmente andavano spese con questa chiarezza un paio di settimane fa, per renderlo più forte, sono difficili da equivocare. cioè il ribadire la fiducia, il negare in maniera assoluta, nome per nome, che ci siano stati contatti con altri allenatori, anzi dire chiaramente che ci sono tanti che si stanno offrendo, il primo è Laurent Blanc, ma che sì, ad oggi non esiste una candidatura. Insomma, sono una serie di affermazioni oggi forse sono state fatte con questa chiarezza proprio perché oggi c'era la società a Milano, cosa che evidentemente è un limite, rappresenta un limite per l'Inter nella quotidianità, non c'è o c'è meno, però io mi sento di dire che dopo questa mattina De Boer sia un po' più saldo di quanto l'abbiamo dipinto fino a domenica. Massimo Caputi? No, io credo che indubbiamente la lontananza di un uomo come noi lo consideriamo, il presidente, il proprietario, è chiaro che comunque si faccia sentire. Io penso che l'Inter abbia bisogno solo di trovare un minimo di continuità. Dopo la vittoria, seppur sofferta ma comunque pesantissima, contro il Torino, a Genova, contro la Sampdoria, può continuare questa striscia, perché comunque la Sampdoria è una squadra anch'essa, se vogliamo, in difficoltà. Credo che sia una partita dove le due panchine, entrambe le panchine, sono un po' a rischio. Sì. Massimo, operato questa mattina a Florenzi, starà fuori 3-4 mesi come minimo, rottura del crociato, non pensi che la Roma sia un po' corta? Beh, guarda, nella sfortuna, per assurdo, in questo momento sta ritrovando Rudiger e Perez, in qualche maniera il ruolo di terzino destro, quello in cui ultimamente ha giocato Florenzi, e in qualche maniera è coperto. Quello che perde la Roma è la duttilità di un calciatore che sa fare più cose, e che quindi in una rosa, soprattutto anche in un modo di giocare come quello di Spalletti, sta bene e dà un valore aggiunto. Lo metti terzino destro, puoi metterlo diciamo come giocatore di fascia basso ma anche alto. Non dimentichiamoci che la Roma perderà Salah per un mese per la Coppa d'Africa, può giocare come ha fatto al posto di Nainggolan, in un 4-3-3 può giocare anche in uno dei tre, diciamo, a destra. Quindi ha varie soluzioni, esatto, e Spalletti ha dimostrato a Napoli di avere anche tutta la fantasia del caso, perché è stato un capolavoro quella partita, quella vittoria. Assolutamente sì, quindi la Roma perde un giocatore molto importante. La fortuna, questo poi lo vedremo naturalmente, però potenzialmente è una squadra che recupera alcuni giocatori e poi ha un allenatore che sa sempre comunque trovare le varie soluzioni tattiche. Questo credo che insomma è una filosofia, no? Poi c'è chi invece parte dal presupposto che avendo un gioco e avendo quello, poi su quello che i giocatori si devono adattare, e ci sono anche gli allenatori, Spalletti uno di questi, Allegri secondo me è un altro, che invece adatta ai giocatori, cioè cerca di far fare ai giocatori la cosa migliore per loro. Certo, grazie Massimo. Grazie a voi. Grazie, ciao. Alla prossima. Allora, voglio farvi sentire cosa ha detto Piero Ausilio stamattina all'assemblea dei soci dell'Inter, e poi Giovanni Capuano ci spiega cosa è successo in un paio di minuti. Cioè, ragazzi, al Milan state a vedere quante volte entra Galliani, o quante volte entra il direttore, o alla Juve piuttosto che al Napoli, o alla Roma, perché non lo leggo, non l'ho mai visto da nessuna parte. All'Inter siamo lì tutti i giorni. Tutti i giorni pranziamo e stiamo insieme all'allenatore, tutti i giorni parliamo di calcio con l'allenatore. Come fa a essere definito solo un uomo così? Allora Giovanni, fammi un riassunto di quello che il riassunto della parte sportiva, insomma, è questa frase di Piero Ausilio, è quello che ho detto prima. Cioè, insomma, Ausilio ha rivendicato con forza anche la vicinanza in queste settimane a De Boer, sua, di Zanetti e di altre figure all'interno della società. Evidentemente non è stato sufficiente per migliorare in maniera concreta i risultati, però io credo che almeno fino alla sosta il tema dell'esonero di De Boer davvero non sia in agenda. Poi si vedrà. Sulla parte economica finanziaria, l'impressione è quella di un club che, a differenza di un anno fa e di quanto raccontavamo, sia evidentemente normalizzato, più solido. Del resto, insomma, quello che è successo in questi sei mesi con l'arrivo di Suning è successo e ha significato l'iniezione di tanti capitali all'interno dell'Inter. Non tutto è risolto. Il bilancio ha comunque chiuso al 30 giugno scorso con un passivo di quasi 60 milioni, 59 milioni e mezzo, che è tanto, ma che è nettamente meno rispetto ai 140 di un anno fa, che rappresenta rappresentavano davvero un Everest da scalare. Cresce il fatturato, Bolingbrock ha detto che crescerà anche l'anno prossimo, l'Inter conta di arrivare oltre la soglia dei 200 milioni di euro, che non è tanto considerato la Juventus e considerate le big europee, ma rappresenta comunque un trend positivo. Da quello che si è capito, in qualche modo l'Inter cercherà di rispettare i paletti dell'UEFA per il fair play finanziario, lo ha fatto in questa stagione e quindi non ci saranno problemi di multe o di ulteriori sanzioni. Per l'anno prossimo serve il pareggio di bilancio, secondo i parametri dell'UEFA. Bolingbrock ha detto: è molto difficile, ma noi pensiamo di potercela fare. Per l'Inter sarebbe un passo fondamentale, oltre che dal punto di vista economico, perché significherebbe uscire da quei lacci che in questo momento ingabbiano l'azione del club. Quindi non vedi operazioni di finanza creativa, come ironicamente sottolineava il nostro ascoltatore. Ma guarda, il bilancio ovviamente non si legge in mezz'ora, però diciamo che intanto rispetto a un anno fa, tanto per dare insomma una misura, un anno fa non c'era stato consegnato, non c'era un bilancio consolidato, quindi bisognava inseguire una serie di somme tra società e società controllate. Oggi noi abbiamo un quadro che è complessivo. I debiti restano alti perché ci avviciniamo comunque a quota mezzo miliardo di debiti, però c'è un socio che ha garantito la continuità aziendale, ha messo dei soldi, ne ha messi tanti, altri disponibili a metterli già a partire da gennaio. Il progetto di un piano quinquennale, quindi insomma certamente i tifosi dell'Inter hanno oggi più garanzie di quante ne avessero in passato. Un'ultima annotazione: da quello che si è capito, nell'immediato Toir non è in uscita dal club. Ah, nell'immediato non è in uscita dal club, quindi rimane lì come... Rimane lì come socio di minoranza, anche perché Suning ha detto, sottolineato più volte, che Toir per Suning è un partner commerciale, ma non solo nell'Inter, anche in tante operazioni nel sud-est asiatico. E quindi ritengono di fidarsi di lui e di non avere nessuna ragione per accelerarne un'uscita. Basta di capire con quali ruoli e con quali poteri. Senti, adesso noi ci fermiamo per il GR, poi torniamo, abbiamo in agenda il basket. Ieri sera abbiamo visto un Olimpia Real Madrid bellissimo quanto sfortunato per Milano. Parleremo di moto, parleremo di nuovo di calcio anche con voi ascoltatori. 800 24 00 24, il numero verde. Tutti convocati. Non si fa fatica, ragazzi. Domenica, ore 14:30. Voice Anatomy, Radio 24. Non mancate, sarebbe un peccato. Parola di Bond, James Bond. Il segnale orario vi è offerto da Stufe e caldaie Termorossi, una promessa di calore per un amore di casa. Tutti convocati. Andiamo dagli ascoltatori, ragazzi. Cristian, buongiorno. Eccoci. Buongiorno. Ciao Carlo. Senti, ciao Cristian, dimmi. Di basket, ma non era meglio a questo punto Gentile venderlo e invece di togliergli la fascia di capitano e tenerlo così? Secondo me che non rende né lui, non fa neanche bene alla squadra. A parte che il gap con Reale ieri sera è stato allucinante. Allora Cristian, ti dico già che l'argomento è in scaletta. Abbiamo previsto un ospite per parlare della partita di ieri sera in cui Gentile ha giocato malissimo, pressoché ininfluente in una gara che insomma Milano ha avuto anche la sfiga di giocare contro il Real Madrid, che è una squadra pazzesca, è una delle serie pretendenti ad alzare la Coppa al cielo, ma ieri sera ha giocato la miglior gara stagionale. Dunque Gentile è in questo momento un problema per l'Armani. L'Armani mi sembra costruita per l'Eurolega, leggermente sotto il livello delle grandissime. Forse si può azzardare un paragone, un parallelo con la Juventus. Tra poco interroghiamo un noto coach. Alessandro, buongiorno. Salve, buongiorno. Dica. Bene, un noto coach, speriamo bene. Allora, prima in che senso speriamo? Cosa vuol dire speriamo bene? Nel senso che i commenti di prima che non mi sono piaciuti tanto per quanto riguarda Pierluigi Baldo, che ha detto che in pratica la Juve è nettamente più superiore al Napoli, soprattutto si sente ancora questa mancanza di Higuain. Higuain domani farà la sua partita. Ha promesso ai tifosi adesso juventini, come ha promesso a quelli del Napoli in passato, che farà tanti gol. Ho sentito prima un tifoso juventino che ha detto ci sarà un boato a Torino. Può essere pure che il boato lo farà il Napoli. Su questo punto di vista. Sì, ma lei giustamente parla da tifoso, come dice Sarri, da un figlio che mi ha fatto incazzare. Gonzalo Higuain è un grande giocatore, il Napoli sente certamente in maniera enorme l'assenza di Higuain, ma anche l'assenza di Milik che si è fatto male. Adesso c'è Martens che fa il numero 9, ma il numero 9 vero, il centravanti, pur non avendone la stazza. C'è Gabbiadini che ha questo rapporto un po' così, mi pare di capire, sul piano della fiducia con Sarri. Guardi che lei magari si sta sbagliando persona, perché forse l'ho detto io che domani è una partita scudetto, una partita ad alta classifica solo sulla carta, perché io continuo a pensare che questo campionato sia si corra su due piste diverse. Su una corre da sola la Juventus e sull'altra corrono tutte quante le altre, compresa la Roma, compreso il Napoli, ovviamente con obiettivi diversi, compreso il Milan, compreso l'Inter, compresa la Fiorentina, compresa la Lazio, e mi fermerei qui. Il noto coach Attilio Caia, mio amico e compaesano. Ciao Attilio, come stai? Ciao Carlo, buon pomeriggio, molto bene. La pensi anche tu con me sul fronte calcistico? Sì, assolutamente. Dai. Assolutamente. E lo dico contro i miei interessi, perché faccio giornalista sportivo, ho un programma tutti i giorni da portare avanti. Io tra un po' di che parlo? Di basket tutto il giorno, molto volentieri. Il campionato dice già finito prima di incominciare, purtroppo. Anche quello di basket? Beh, nel basket il campionato italiano ancora di più. Perché mentre nel calcio ci possono essere quelle giornate un po' storte dove una squadra può fare un inciampo, così nel basket alla lunga le squadre più forte nel campionato vince. Quindi questo non vuol dire che magari l'Armani faccia un percorso netto 30 su 30, però è molto più facile che perda la Juve punti nel calcio che non l'Armani nel basket. Ieri sera ho visto una grande partita. Bella partita. Milano, ho visto una grande partita. Milano-Real Madrid, la sensazione è che non ci fosse modo di fermare il Real Madrid ieri sera, non solo per Milano, ma forse nemmeno per tutte le altre d'Europa, per come ha giocato. Ma io ho visto anche due giorni fa Real Madrid contro il Baskonia e devo dire che qui in Eurolega si vedono partite di un altro livello rispetto a quelli che siamo abituati, ahimè, nel campionato italiano. E devo dire che la fisicità e l'intensità è proprio quello che fa la differenza, oltre all'aspetto tecnico. È chiaro che il Real Madrid ha un'abitudine, ha un background di giocare partite a questi livelli, sia come ossatura di squadra. D'altronde hanno perso solo Sergio Rodriguez rispetto all'anno scorso, rispetto a due anni fa. Non è poco, però è un giocatore, però quando poi lo sostituisce Sergio Llull te ne accorgi un po' meno. Ecco, te ne accorgi molto quando lo sostituisce Draper. Infatti, i momenti in cui c'era dentro Draper, Milano si riavvicinava ha fatto una rimonta anche importante. Però insomma, attualmente quelli hanno, come si dice, un anno di vantaggio, o forse qualche anno di vantaggio rispetto alla costruzione della squadra. Ascoltami, come chiedeva l'ascoltatore di prima, in questo momento Gentile è un problema per Milano? No, io non credo che sia un problema, perché Gentile ha dimostrato anche nella partita che ha fatto contro l'Olympiacos all'inizio della partita, con la sua fisicità ha messo in difficoltà l'Olympiacos, quindi quella partita di martedì. È un giocatore che deve trovare i suoi spazi, come altri giocatori. Quest'anno è una squadra completamente diversa, sia a livello di nomi che di suddivisione di responsabilità. Tanti giocatori che sono importanti, ognuno deve trovare il proprio spazio. Ma Gentile, per quello che dicevamo prima, in Europa conta soprattutto il livello di fisicità e il livello di forza anche fisica e mentale. Gentile è un giocatore che queste caratteristiche le ha, quindi deve gioco forza essere usato nel miglior modo, che può dare un grande contributo. È un'annata importante anche per lui, perché se vuole ambire, come giustamente deve ambire, un top al campionato NBA, deve fare un'annata importante, e in certe partite l'ha anche dimostrato. l'ha dimostrato di poterlo fare. Sì, fisicamente Milano si è molto avvicinata alle grandi Europa, sappiamo che lì contano anche chili, centimetri, e contano queste cose. Ha preso un centro dominante che peraltro ieri sera ho visto un po' troppo a lungo in panchina nel secondo tempo, ma questa è un'opinione mia, perché poteva far male al Raduliza, poteva far male al Real Madrid, perché con quel fisicaccio facevano fatica a tenerlo anche gli esplosivi lunghi del Real Madrid. Io però continuo a pensare, anche qui ti faccio un altro parallelo con il calcio, che questa Armani sia un gradino sotto le grandissime. Sei d'accordo con me? Sì, vero. Vero, perché le grandissime che possiamo identificare in Real Madrid, in Cesca, in Fenerbahce, ecco, forse Barcellona un pochettino meno rispetto a queste, però di sicuro Fenerbahce, Cesca e Real Madrid. Io metterei anche per storia l'Olympiacos, perché la storia, l'abitudine a giocare partite di alto livello, partite così ravvicinate, non è che si possono inventare. Ogni squadra che ha un suo background, un suo passato. Milano se lo deve ancora costruire, questo suo passato, questo suo background, e sì, quest'anno può essere un anno zero se riescono a tenere questa ossatura, e poi in futuro possono anche far qualcosa di importante. Posso dirti una cosa un po' provocatoria? Prendi anche a me l'Olympiacos piace, eh? Prendi Spanulis, sì, lo metti a Milano e Milano entra immediatamente nell'otto di quelle altre che abbiamo nominato. Sì, è vero, però questo ma parte per leadership, di... per leadership, sì, per personalità, leadership, però per quella caratteristica, come era Diamantidis per bravo, il Panathinaikos. Sono certi giocatori, come lo è un po' Teodosic per il Cesca, però cioè, ce ne sono a livello europeo, non sono tanti quei giocatori che possono spostare. Chiaro che con i due o tre cambiano la squadra, spostano la squadra, però c'è anche un contorno anche di squadra di altri giocatori che anche nell'Olympiacos certi giocatori riescono. Manzaris è un altro giocatore che riesce, sta facendo molto bene. Papanicolaou fa un altro giocatore, fa molto bene, però non sono giocatori che alla prima espressione, sono giocatori ormai consolidati a livello europeo. A livello europeo. Per te come sta andando per chiudere, Attilio? Bene. Bene. Siamo a guardare, siamo a osservare, quindi non si sbaglia. Guardare e osservare non si sbaglia. Siamo quindi a vedere cosa succede, sono tante belle cose, soprattutto questa formula per l'Eurolega, penso che gli sportivi sia una cosa bellissima. Vedere due partite alla settimana di quel livello è veramente importante, c'è un servizio che offre Sky di altissimo livello, e quindi anche dal punto di vista di aggiornamento professionale è molto interessante. Senti, ti aspetto qui un giorno, vienimi a trovare, che spesso va bene, mi sento sempre un solo. Piacere. Ciao Attilio Caia, ciao. Buona giornata. Ciao. Facciamo passare così anche l'ambulanza o la polizia, speriamo nulla di grave, eh? Manuel, buongiorno. Buongiorno. Da Terni. Poi andiamo da Silvia da Firenze. Vorrei quasi cedere la parola alla signora, mi permette? Giusto per un gesto di gentilezza. Silvia, buongiorno. Sì, buonasera. Buonasera, dica. Io volevo un'informazione, volevo sapere, ma la pratica Salà fiorentina, che è ferma da mesi, non so, avete notizie voi? Io personalmente no, non è in cima ai miei pensieri, ma se vuole gliele recupero presto, la settimana prossima gliene parlo. Le dico la verità, non so a che punto stia quella pratica che gli ha tenuto in ballo Salà tra una maglia e l'altra per tutta l'estate. Mi spiace non poterle essere utile, Silvia, però le prometto che mi informo. Manuel da Terni, buongiorno. Buongiorno. Mi dica. Allora, no, niente, volevo lamentarmi proprio di questo atteggiamento nei confronti dell'Inter, ma in generale di tutta la stampa. Dovete smetterla continuamente di dare addosso a questa squadra, dire sempre che l'allenatore è sul punto di essere mandato via. È un continuo. Non ve lo permettete né con Juventus, né con Milan, né con Fiorentina, né con Roma. Solo con l'Inter. No, aspetti un perché attimo. Perché è la più debole. Aspetti. No. L'Inter non è la più debole. Allora, aspetti un attimo. Mettiamo un attimo di ordine. L'Inter, secondo me, ha un organico che vale quello della Roma e del Napoli. Leggiamo la classifica, non è a livello della Roma e del Napoli. Confusione societaria ce n'è, perché questo lo sappiamo, ma è quasi fisiologico, come ho detto molte volte. Manca il chairman, l'uomo guida, il plenipotenziario. Dovrebbe essere Toir, ormai ex presidente o presidente uscente, poi Giovanni Capuano prima ci diceva ma rimarrà forse un po' di più. Lui rimane lì fino al momento in cui incasserà il grano che gli serve o che ritiene giusto per cedere la sua cospicua quota di minoranza ai nuovi proprietari cinesi. Ausilio fa l'area tecnica, l'amministratore delegato, va l'uomo mercato, ed è molto bravo in questo. Zanetti sta studiando da vicepresidente, è una bandiera, è un meraviglioso interprete del calcio, una meravigliosa persona, ma nella gestione dei problemi pratici. Allora, si è partiti con un Inter che fino all'altra sera aveva un allenatore che è andato in panchina da esonerato, ma per i risultati io continuo a pensare che quella di De Boer sia stata una scelta sbagliata, ma non per il valore dell'allenatore, sia chiaro, perché era una situazione sbagliata a pochi giorni dall'inizio del campionato prendere un allenatore che arriva comunque, ne abbiamo parlato anche ieri, da un altro pianeta. Non capisco dove stia questo dare addosso all'Inter. Posso dire un... Posso? Sì che può. Siamo, ecco, no, guardi, lei, voi, comunque la stampa gli dava addosso anche l'altro anno, quando erano primi in classifica, quando si vinceva la Coppa dei Campioni. È sempre stato così. Ma non, cioè, io non mi ci metto. La Juve miracolosa che sta sempre lì. In Europa non fa nulla. In Europa non fa nulla, ha giocato la finale di Champions 2 anni fa, ma non voglio star lì a dire. Io però questa generalizzazione non l'accetto, perché l'anno scorso io dicevo, e se vuole ci sono le registrazioni, che l'Inter era prima in classifica vincendo 1-0 e meritandolo e con pieno merito. Poi è implosa o esplosa, decidete voi quale dei due preferite, ed ha chiuso la stagione nel modo che conosciamo. Il rapporto con Mancini si è rotto l'anno scorso, quindi secondo me un peccato originale di una società che non ha una guida è stato quello di confermare un allenatore di fatto esautorato. Il divorzio si è consumato a pochi giorni all'inizio del campionato. È arrivato un allenatore che sinceramente io, ma non solo io, sentiamo diversi pareri in giro, non avrei preso. De Boer giustamente continua a chiedere tempo. L'Inter ha tempo? L'Inter non ha tempo. Questo è indubbio. L'Inter deve provare, al di là di un bilancio che va meglio, come ci diceva prima Capuano, deve provare ad entrare in questa benedetta Champions League che garantisce i soldi necessari per crescere e per costruire. Quindi io in quel voi non ci sto. Io però, se permette, mi tengo le mie idee, come lei si tiene le sue, che sono anche di critica su una squadra che non sta certo giocando un gran calcio, anche se qualcuno dice come ho cominciato a rivedere giocare a pallone. Prende un sacco di gol, ha risultati molto, molto alterni. Il segnale positivo che si è avuto l'altra sera è che mi è sembrato che i giocatori, in un vuoto societario pneumatico, perché De Boer il giorno prima è stato mandato in conferenza da solo, quasi allo sbando, allo sbaraglio, tanto che si parlava di dead man walking, no? Verso l'ultima macchina dell'Inter, non è avvenuto. C'è stata una vittoria siglata dal giocatore più chiacchierato, cioè Maurizio Icardi, e questo è l'Inter, questo è l'ambiente dell'Inter. Ma io da quel voi mi dissocio, perché non sono della categoria che, ma non me ne frega neanche nulla di criticare a prioristicamente l'Inter, semplicemente io esprimo il mio pensiero come fa lei e come fanno tutti quelli che vogliono essere convocati. Ragazzi, un po' di motori per chiudere. Sarà vigilia di nuovo di Formula 1 e di Moto Mondiale, ha parlato, si corre in Messico per quanto riguarda la Formula 1, una gara che potrebbe assegnare il titolo a Nico Rosberg, salvo che non gli torni il braccino che abbiamo visto domenica scorsa. Sentiamolo. Bello essere in questa situazione, perché è stata una bella stagione finora e ora adesso di essere in questa situazione di avere in vantaggio quei punti e di essere nella lotta del mondiale è bellissimo veramente, però per me è un sentimento per fare il più bel weekend e di essere, come hai detto, come lei ha detto, di essere nel momento e puntare sulla vittoria qua in Messico e basta. Per quanto riguarda le moto invece si corre a Sepang in Malesia, qui il titolo archiviato Mark Mostro Marquez, però c'è aperta questa interessante sfida per il secondo posto, sembra di essere di nuovo nel campionato italiano di calcio, nel campionato italiano di basket, però la sfida tra Valentino Rossi e Jorge Lorenzo è... A me appassiona, no? Voglio vedere se Vale ce la fa ad arrivare secondo. Cosa ha detto? La gara dell'Australia è stata una delle più belle, dove mi sono divertito di più, ecco, anche se non ho vinto. E partire da dietro e tornare su così è la cosa che ti fa godere di più, dà veramente gusto. E poi farlo a Phillip Island, che già è una goduria guidare anche se sei da solo, no? E quindi fantastico. Mi dispiace un po' perché nella seconda parte di gara non sono stato forte e veloce come Crutchlow, abbiamo avuto un po' più di problemi e quindi non ho vinto perché sono partito 15°. Ma non ho vinto perché nella seconda parte di gara lui è stato più forte. Allora c'è anche Andrea Iannone che torna con la Ducati dopo essersi preso una pausa di recupero fisico e di riflessione e di chiacchiera con la nota Belen. Mi sento bene, sono tornato, avevo tantissima voglia di tornare e sinceramente non vedo l'ora di andare domani in moto, perché ho una gran voglia e soprattutto anche per capire comunque quanto riuscirò ad essere competitivo, se sono ancora veloce, mi ricordo ancora come si fa oppure ho perso completamente lo smalto. Roberto Ungaro, The Voice, come stai? Ciao Carlo, bene. Ciao. Tutto, tutto. Allora, che gara vediamo al di là di Iannone che torna dopo aver passato alcuni giorni, immagino, molto dolci con Belen, ma questi... sono affari suoi o nostri o dei gossipari, a noi interessano un po' da lontano. Come lo vedi a Sepang il duello Rossi-Lorenzo? Guarda, è a favore di Vale, perché nelle libere del mattino Marquez intanto è il miglior tempo, Vignale sta alle sue spalle, si è confermato sempre di più e anche la Suzuki sempre un'ottima moto, Scott Redding sorpresa terzo, Iannone si ricorda bene come si sta ad andare in moto, è quarto a soli 3 decimi e poi c'è Valentino quinto, Lorenzo solo decimo, prende un bel 8 decimi, quindi nelle libere del mattino con una pista riasfaltata, qualche curva cambiata nella pendenza, quindi il riferimento con l'anno scorso non si può più tenere, poi invece le seconde libere c'è stata un po' di acqua, ha completamente sconvolto i valori in campo. E quindi si è fatto vedere l'australiano Jack Miller che ha fatto il miglior tempo, però era più alto di 8 secondi, quindi non fa tanto riferimento. Cal Crutchlow alle sue spalle, si riconferma sul bagnato, uno fortissimo, Hector Barberà e Dovizioso settimo. Valentino ha usato solo gomme re, invece erano le piccole da usare, è 13° indietro, ma Lorenzo addirittura 16°, quindi per la Yamaha le seconde libere non fanno il tempo. Sì. Attenzione a Scott Redding perché nelle libere del mattino è uscito terzo tempo l'inglese con la Ducati, sta crescendo molto bene, da tenere d'occhio per l'anno prossimo con una moto cliente tra l'altro. Sì, questo è chiaro. Abbiamo trovato, se non altro Roberto, tanti vincitori diversi in questa stagione, è stata molto divertente. Sì. Per le singole gare abbiamo visto queste Michelin che sono di più difficile gestione, qualcosa si studieranno certamente. E abbiamo trovato comunque vari personaggi, da Crutchlow a Vignales, abbiamo conosciuto comunque altri piloti competitivi. Sì, c'è stato un cambio generazionale. Cambio generazionale, certo. Sì, sono stati tanti piloti alla prima vittoria e tu sai che quando uno si sblocca poi può diventare una realtà, no? Quindi l'anno prossimo Vignales con la Suzuki, con la Yamaha, scusa, compagno di Valentino, sarà subito competitivo. Iannone deve riconfermarsi, Crutchlow anche lui non è più un fuoco di paglia e la Honda comunque ha dato una mano perché la moto è sempre più competitiva. Grande punto di domanda su Lorenzo con la Ducati, perché sarà un matrimonio difficile, ci vorranno un po' di gare secondo me perché venga l'affiatamento, e Valentino è contento, sorride, è a posto, a parte le seconde libere con l'acqua, però è nettamente davanti a Lorenzo. Lorenzo è apparso un po' nervosetto, non è a posto. Questa è una pista dove la Yamaha dovrebbe poter tornare a vincere. Sono 10 gare che non vince, c'è il grosso punto di domanda. Tantissimo tempo. Roberto, ti ringrazio. Torniamo ovviamente a parlarne lunedì. Ringrazio anche Giorgio De Luca, il nostro autore, Andrea Roccabella in regia. Alvise Falzone in redazione. Ci sentiamo domenica pomeriggio con Tutti Convocati Weekend con Giovanni Capuano dalle 17 alle 19 e poi ovviamente Tutti Convocati lunedì alle 14. Ciao.